Già abbiamo presentato tutta la stagione di Pera Spera Festival, per quanto riguarda, ormai giunta al termine per la programmazione di questo incontro di cui Radio Città Fujiko ha dato diffusione, però certamente last but not least, anzi tutt'altro, perché abbiamo un doppio appuntamento con replica per sabato 21 settembre, domenica 22 settembre, nata vicino ai fantasmi, nata tempesta. Abbiamo qui con noi la curatela, la videomaker che ha progettato con questa concretezza nel portare contenuti legati anche a un mito che nel cuore mi sta. Ne parleremo magari con Giorgina Piche, qua in diretta telefonica con noi. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno, buongiorno, eccomi. Allora, nonostante la levataccia ti sento bella presente e questo mi fa molto piacere. So che registi, attori, per lo spettacolo a volte le prove, l'impegno si tira un po' tardi, ma la rubrica in scena per mattiniere e mattinieri in questo caso, dove per i contenuti che vi ho appena anticipato, raccolta l'Ercaro, una delle sedi, uno dei palcoscenici di Pera Spera in via Rivareno 57 a Bologna. Allora, è un'esperienza molto omnicomprensiva, da sensazione importante, nata vicino ai fantasmi, nata tempesta e poi il mito di Tiresia e l'interpretazione di Kai Tempest, rapper e impegnata socialmente, non solo. Mettere insieme tutti questi contenuti, da dove cominciamo per quanto riguarda l'anticipazione dello spettacolo Nata vicino ai fantasmi e nata a tempesta, Giorgina? Beh, partirei proprio da cos'è Nata vicino ai fantasmi e nata a tempesta, che è un ascolto in cuffia che può permettere a chi lo fa di muoversi nello spazio, di sedersi, di rimanere in piedi, di viversi un momento intimo della durata di circa di 35 minuti. È un ascolto in cuffia di una sorta di diario, è un diario di questi anni di lavoro che ho fatto attorno al mito di Tiresia, anni che hanno avuto principalmente al centro la poesia di Kai Tempest e la musica di Kai Tempest, che tanto sul mito di Tiresia ha lavorato. E c'è inoltre molta ambientazione del mito greco legata alla Grecia contemporanea, c'è molta musica, molti suoni della Grecia contemporanea, così come ci sono altre riscritture che sono state fatte di Tiresia, come quella di T.S. Eliot. Sì. Tanti discorsi e ragionamenti fatti con alcune persone, in particolare con una, Maria Vittoria Tessitore, che è una studiosa di letteratura inglese, proprio su questo mito. Quindi diciamo che Nata vicino ai fantasmi, Nata tempesta, ha degli estratti del lavoro fatto in questi anni, anche molto personali. E per essere preparato, oltre che il mito, che è una mia grandissima passione, il mito nella classicità, l'epica, ma anche la scrittura di Eliot, mi sono portato le raccolte di poesia di Eliot qui in diretta di fianco a me, perché ha ispirato tantissimo. Ieri tra l'altro ho iniziato a parlare di tutto ciò con un amico e ha dato motivo di confronto molto molto particolare. Il mito di Tiresia e non solo, anche la possibilità nata vicino ai fantasmi, nata a tempesta. Blue Motion sarà sabato 21 settembre, cioè domani, ore 19, in replica alle ore 20, domenica 22 settembre, ore 18, in replica alle ore 19, dove raccolta l'Ercaro, via Rivareno 57 a Bologna. Allora, Tiresia è... ha un dono, quella della divinazione, però è una sorta di risarcimento che Zeus porta a questa figura, perché la moglie Era lo maledice o la maledice togliendo la vista in seguito a una situazione molto contraddittoria. Beh, quindi lui vive in seguito a tutto ciò anche una trasformazione tra uomo e donna, e la domanda è questa: ma prova più piacere durante un incontro, un uomo o una donna? Tiresia, lo chiediamo a te che hai vissuto tutte e due le situazioni. La risposta sarà, beh, decisamente una donna, perché prova 9 volte più piacere di un uomo che resta fermo a una. Era vede tutto ciò come una offesa, come un aspetto troppo carnale e non approva, non apprezza e toglie la vista per punizione a Tiresia. Zeus così ci rimane male e dice: povero, ok, ti hanno tolto la vista, io ti do la possibilità di vedere il futuro. Ok, correggimi se mi sbaglio in questo racconto. No, è giustissimo, è giustissimo. Sì. Perché da qui ci sono tanti spunti e tanti motivi importanti di approfondimento. E do a te la parola a questo punto. Perché questa fascinazione? Beh, perché Tiresia è questa creatura che rompe sempre il cosiddetto ordine naturale delle cose. Cambia sesso più volte nella sua vita e ogni volta gli capita in maniera imprevista, in maniera, come dire, innocente. Ha una vita lunghissima, quindi conosce la vita per secoli. E riesce sempre a vivere in situazioni che lo rendono in qualche modo solitario ma indispensabile. Sì. E mi sembra che tutte queste caratteristiche ci possano parlare fortemente di chi potrebbe essere Tiresia oggi. È vero. Sicuramente sarebbe una persona considerata nella nostra società meritevole di stare ai margini e non al centro. Sicuramente sarebbe una persona identificativa per delle lotte, per un pensiero non scontato, per un pensiero non addomesticabile e per un corpo soprattutto non conforme, un corpo che crea continuamente scandalo e estrema fascinazione. Sì, mutevole tra l'altro. A sua volta Tiresia viene condannato a questa mutazione perché involontariamente, hai fatto bene a citare la parola involontariamente, capiterà di vedere Atena mentre fa il bagno e la vede così ovviamente nuda. La dea, figuriamoci, già di per sé molto fumantina, lo condanna a queste costanti trasformazioni, per cui è un po' sventurato Tiresia, però ha un dono fondamentale che è avanti, lui è molto avanti, anzi viene cercato per questo o cercata per questo e tutto ciò è nel mito che, come ben sapete, diventa tutti i tempi e lascia grandi prospettive di ricerca, come è capitato ieri sera dopo cena che ne abbiamo parlato a oltranza. Allora, volevo dire, sì, in maniera non certo da professori, però insomma ha lasciato motivo di dialogo in maniera incisiva. Allora Giorgina, parliamo un po' anche dello spettacolo, poi ho selezionato Nice Idea di Kay Tempest come commento musicale che ci darà la conclusione per quanto riguarda il tuo lavoro. Un'esperienza omnicomprensiva, insomma immersiva si dice adesso, senza svelare ci puoi dire qualcosa di più? Ma io direi che è principalmente un'esperienza sonora, trattandosi appunto di un lavoro in cuffia, e consiglierei che fosse un'esperienza emotiva, perché certamente non è un trattato sul mito di Tiresia, ma è un mettere insieme dei pezzi di diario che spesso nel nostro lavoro non sono pagine scritte con la penna, ma sono appunto parole scambiate con qualcun altro, letture, interpretazioni fatte da alcuni attori e attrici nel momento della ricerca, folgorazioni sonore. E quindi quello che io suggerisco è di lasciarsi andare, e prendere da questi estratti qualunque cosa sentiamo sia nostra. Io ti ringrazio tantissimo e ribadisco e invito sabato 21 settembre domani alle ore 19, replica alle ore 20, domenica 22 settembre alle ore 18 in replica alle ore 19. Nata vicino ai fantasmi, nata a tempesta. Con noi l'approfondimento con Giorgina P. che alla quale auguro una buonissima giornata e nuovamente, grazie mille. Nuovamente altrettanto con, grazie. Con Radio Città Fuji con la rubrica In Scena. Tale proposito, nice idea, Kay Tempest, a tra poco. Nice idea, stop knocking, I'm not here. Stocking up, I not got enough. Front windows frosted up. Sat in the car with the news on, shaking my head. The least I can trust the confusion. Everyone's out for what they can get. We ain't seen nothing yet. You know what I need? A week on a beach or a freak on a leash. Concerns of the day keep crowding around me. When I'm trying to sleep, I keep it discreet. End of the week. He's on a podium with his physique. She's in the shadows, nose full of beak. Nice technique. Back to the matter at hand. Fractured reality, captured equality, high definition. War inequality, boring to listen. Anyway, makes no difference. It's all conjecture. I prefer projections. Keep it all positive. Back to the basement. Back to the session. Our lives are the rhythm section. No one's in time, don't listen. Just keep on playing as if one day it will all make sense. I wanna stay in bed with you all day. I wanna stay in bed with you all day. I wanna stay in bed with you all day. I wanna stay in bed with you all day. I seen them go bad for money, I seen them go bad for love, I seen them go bad for status. Nobody could get enough. I blame the city for it. It weren't the city's fault. Underneath the city is a vault full of murder, straight up exploitation, theft and greed and death and racing hearts. You ain't got nothing left. They'll steal the breath straight out your chest if it would give them one more step to run. This heavy stress, excess, keep building up. Don't settle, less is more, but more is better. Pleasure, heavy metal, heavy weather. Fuck it, let's go back to bed forever. Watch TV and blaze till I can't speak to answer whether I'm okay or not. And if I ever get another minute, I'll be sure to do something with it or something. I wanna stay in bed with you all day. I wanna stay in bed with you all day. I wanna stay in bed with you all day. I wanna stay in bed with you all day. Just give me a minute to drink. If this is it here to bring the end of it all, then come, let's sink into its arms, red sky pink. Sunset shrinks the whole horizon. I was born and I would die, and there is nothing I can know. There are no reasons why. There is no cause, no calling, no direction home. Overexposed and blown apart and overgrown. We know it all and can't be shown. And my opinion's fine by me. My truth's all I need. Other people's lives and mysteries that I'm too tired to read. All these people shouting loud, so hard to care about. All the people I don't hear are the people I hold dear. Yeah, nice idea. Keep knocking, no one's here. Yeah, nice idea. Keep knocking. Finisce così improvvisamente questa nice idea di Kay Tempest. Beh, ha inciso anche per la Lex Record, che per quanto riguarda l'alternative pop, etichetta molto molto importante. Allora, grazie a Giorgina P per questa conversazione all'interno di Pera Spera Festival. Tra pochissimo, non è finita qui, no, abbiamo altro ultimo, anche in questo caso certamente ci spostiamo un attimo in provincia ed è un territorio esteso e molto particolare. Pensate che ho anche giocato un anno a Budrio e parleremo del Teatro Consorziale di Budrio. Anche qui un'intervista molto estesa a più voci, al termine della quale parleremo anche di gastronomia. Sapete con chi lo faremo? Con Vito.